giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La volata della campagna elettorale a mezzanotte si chiude. Udine, epicentro degli appuntamenti con i big, c'è anche la presidente del Consiglio Meloni. Confindustria, le nuove prospettive dopo il rinnovo dei vertici, il dibattito sull'unificazione per ora congelato. Scioperano gli addetti alla vigilanza privata, contratto scaduto da 8 anni, manifestazione a Trieste. Il nodo siccità nel rapporto dell'autorità di bacino, già raggiunto il livello di preallerta. Pordenone, 2 mesi di raccolta dei rifiuti porta a porta, oltre 500 tonnellate in meno, migliora la qualità della differenziata. A Trieste il giorno del Fame Lab, il talent show della comunicazione scientifica. Musica, Udine, il concerto di Damien Rice al Teatro Nuovo, una delle 2 date primaverili in Italia. Pallacanestro Trieste, infortunato Hudson, la società ingaggia il lettone Stumbris. Venerdì 31 marzo, buona giornata da Giampaolo Mauro e Lorenzo Gallinzoni. Abbiamo cielo coperto sul Friuli Venezia Giulia, le temperature registrate alle 6, a Trieste 13 gradi, a Pordenone, Gorizia e Udine 10,5, nell'area montana Tolmezzo 7 gradi, a Tarvisio 6 e 5 decimi, a Sappade sul Piancavallo 3, a Foni di Sopra 5, su Lussari e sullo Zoncolan 0 gradi, a Grado 12, a Lignano 10 e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per la giornata odierna: cielo da nuvoloso a coperto con probabili piogge sparse, in genere deboli su bassa pianura e costa, da moderate ad abbondanti sull'alta pianura e sulla zona montana, specie a est, possibili temporali. Quota neve inizialmente intorno a 1800 metri circa, nel pomeriggio in calo fino a 1400 metri circa sui monti, in quota soffierà vento anche sostenuto da sud-ovest, vento da sud o libeccio moderato sulla costa, in serata miglioramento a partire dall'ovest. Si apre dunque l'ultimo giorno di campagna elettorale, c'è tempo fino a mezzanotte per gli appelli dei candidati e per le visite dei big che anche ieri hanno caratterizzato un'intensa giornata. La campagna del centrodestra si concluderà a Udine alle 17.30 in piazza 20 settembre, dove a sostenere le candidature di Massimiliano Fedriga alla presidenza della regione, di Pietro Fontanini a sindaco, ci saranno la presidente del consiglio Giorgia Meloni e i vice Tajani e Salvini. Quest'ultimo sarà stamattina a di sopra con la viceministra Vannia Gava per il tavolo tecnico di presentazione del progetto di fattibilità del traforo del Mauria. Esponenti di spicco della Lega, 4 presidenti di regione, anche ieri sera a Udine per il patto elettorale del Carroccio. Sentiamo il servizio. Sulle sedie bianche davanti alla platea della Sala Iace di Palazzo d'Aronco ci sono seduti tutti i governatori italiani della Lega, dal Trentino Alto Adige Maurizio Fugatti, al Veneto Luca Zaia, alla Lombardia Attilio Fontana, all'Umbria Donatella Tesei, alla Sardegna Cristian Solinas. In mezzo a loro il leader della Lega e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, vicino a lui Massimiliano Fedriga, presidente uscente del Friuli Venezia Giulia. Sono a Udine per sostenere la candidatura di Massimiliano Fedriga, presidente della regione, e quella di Pietro Fontanini a sindaco del capoluogo friulano. È proprio il sindaco uscente di Udine a salutare per primo, ricordando la promessa elettorale di Salvini, quella di eliminare i 5 passaggi a livello della città. Poi Donatella Tesei riduce la distanza tra Friuli Venezia Giulia e la sua Umbria, sottolineando come industria e promozione turistica siano per entrambi i motori dell'economia. Per Fugatti non bisogna avere paura dell'autonomia differenziata, mentre Fontana pone al centro il modello lombardo nella collaborazione pubblico-privato. Zaia ricorda i tempi della sua laurea a Udine e come la squadra Veneto-Lombarda sia stata capace di aggiudicarsi le Olimpiadi invernali. E proprio la capacità di fare squadra è sottolineata dal ministro Salvini come la vera forza della Lega. Servirà, dice il leader del Carroccio, per vincere anche in Friuli Venezia Giulia con Fedriga, che ricorda il difficile momento della pandemia ormai alle spalle, il nuovo collegamento aereo da settembre Trieste-Milano-Linate e come Salvini lo abbia convinto a candidarsi a governatore 5 anni fa. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il candidato del Terzo Polo, Alessandro Maran, chiuderà la sua campagna stasera a Castions di Strada, alla trattoria Levade. Siamo riusciti a posare le fondamenta per la casa dei riformisti, dice Maran, sottolineando quella che definisce una crescita veloce in breve tempo. Per il Movimento 5 Stelle la campagna elettorale si chiuderà con il leader Giuseppe Conte, che questa mattina sarà a Trieste alle 11.30 al gazebo di Piazza della Borsa, poi alle 14.30 a Udine in Piazza Libertà con il candidato sindaco Ivano Marchiol e alle 16 a Pordenone in via Montereale davanti all'ospedale per una riflessione sulla sanità con Massimo Morettuzzo, candidato presidente della regione. La campagna dello stesso Morettuzzo si chiuderà a Gemona con un incontro in Piazza del Ponte. E Morettuzzo ieri sera era a Trieste e a Udine, dove ha incontrato la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Il servizio. In Piazza della Borsa a Trieste il primo dei due appuntamenti elettorali della neosegretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a sostegno del candidato presidente Massimo Morettuzzo, che conosceva già in precedenza. E la sua fama peraltro la conosco da molti anni, quindi sono felicissima che oggi sia il nostro candidato e sono felicissima di essere qui a sostenerlo. Dal palco ha parlato di difesa della sanità pubblica, di diritti a suo dire negati dal governo Meloni, ha portato ad esempio i figli delle coppie omogenitoriali, l'attacco al governo e sui ritardi per il piano nazionale di ripresa e resilienza e sulla riforma del codice degli appalti che ha ristretto i casi in cui le amministrazioni devono bandire una gara. Questa è anche la prima elezione in cui Schlein è alla guida del PD. Questa non è una regione piccola, è una regione importante che ho la fortuna di conoscere per avere avuto anche l'onore di rappresentarla come parlamentare europea in passato. Credo che ci sono molte sfide che riguardano questa regione e che sono molto in linea con quello che noi portiamo avanti da quando sono finite le primarie. Una piattaforma che mette al centro la dignità delle persone, la qualità del lavoro e anche il rispetto del nostro pianeta. Dopo Trieste, Schlein è stata ospitata al Palamostre di Udine per un altro appuntamento elettorale che in quel caso, oltre alle regionali, ha messo insieme la sfida delle comunali con il candidato sindaco Alberto Felice De Toni. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La lista Insieme Liberi candidata per il rinnovo del Consiglio regionale e la lista Liberi Elettori Io Amo Udine candidata invece per il rinnovo del Consiglio Comunale di Udine chiuderanno insieme la loro campagna elettorale a Udine alle 18 all'Hotel Ambassador con la candidata alla presidenza della Regione Giorgia Tripoli e il candidato sindaco Stefano Salmè. Ci sarà Gianluigi Paragone, segretario nazionale di Italexit. Una festa dal titolo Udine Città Viva chiuderà invece la campagna elettorale del candidato sindaco Alberto Felice De Toni con tutti i candidati del progetto civico per le elezioni comunali, ovvero Terzo Polo, Alleanza Verdi e Sinistra, PD e lista civica De Toni sindaco. L'appuntamento al Parco Brun di Piazzale Cavris o in caso di maltempo al Bire di Piazzale Osoppo, sempre a partire dalle 18. L'ultimo giorno di campagna elettorale prevede anche l'ultimo confronto tra i candidati alla presidenza della regione davanti alle telecamere della RAI. Giorgia Tripoli, Massimiliano Fedriga, Massimo Morettuzzo e Alessandro Maran risponderanno alle domande dei direttori dei giornali locali. La trasmissione alle 13.15 su Rai 3 con replica radiofonica alle 17.05 su Radio 1. Tutte le tribune si possono vedere su internet in una sezione dedicata del nostro sito rainews.it/tgr/fvg. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sarà oggi in regione per una serie di appuntamenti istituzionali. Questa mattina sarà all'Università di Trieste, dove tra l'altro si tiene l'iniziativa Porte Aperte, dedicata alla presentazione dell'offerta formativa. Nel pomeriggio Bernini sarà a Pordenone per visitare il consorzio universitario e incontrare le categorie economiche del territorio. Ora passiamo ai temi del lavoro e dell'economia con il rinnovo dei vertici di Confindustria regionale e le nuove prospettive dell'associazione. Il dibattito sull'unificazione viene per ora congelato. Eletto Pierluigi Zamò come nuovo presidente di Confindustria FVG, non ci saranno fusioni tra le due rappresentative territoriali di primo livello, quella di Udine e Confindustria Alto Adriatico. Ad escluderlo è il presidente di quest'ultima, Michelangelo Agrusti, che dispone della maggioranza del pacchetto di imprese associate e che punta piuttosto a riprendere il cammino verso una Confindustria del Nord-Est. L'elezione di Zamò, figura stimata da entrambe le territoriali di cui è socio, è arrivata dopo mesi di trattative tra lo stesso Agrusti e Gianpietro Benedetti, leader degli industriali udinesi. Il progetto di fusione, tuttavia, è auspicato da diversi imprenditori, soprattutto in una regione di queste dimensioni, anche se le condizioni nell'immediato non sembrano esserci. Secondo Alessandro Calligaris, ex presidente di Confindustria FVG, Zamò saprà dare maggiore rappresentatività e continuare il progetto di unione già avviato con l'ex AD di Fincantieri, Giuseppe Bono. Il ruolo di Confindustria FVG è oggi quello di trovare una sintesi tra le due territoriali e rappresentare il mondo imprenditoriale presso le istituzioni. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia le imprese guidate da cittadini stranieri sono poco meno di 12.900 e sono aumentate di oltre il 6,5% nell'ultimo anno. I settori maggiormente interessati sono edilizia, commercio e ristorazione. Sono alcuni dei dati esaminati nel rapporto Nord-Est del Sole 24 Ore, oggi in edicola. Il rapporto si occupa anche di credito, strategia d'impresa, ricambio generazionale, istruzione. Il bilancio 2022 di Illy Caffè chiude con un utile netto di 14,2 milioni più 18,9% e ricavi consolidati per 567,7 milioni in crescita del 13,6%, il più alto degli ultimi 10 anni. Il caffè Illy in Italia ha fatto registrare ricavi il cui aumento sfiora il 10% con una crescita in tutti i canali distributivi, ma è negli Stati Uniti considerato mercato prioritario nel piano strategico che i ricavi hanno subito un'impennata col più 27,4%. In Cina i ricavi sono saliti del 15%, trainati dall'online. Nel 2022 il prosciutto di San Daniele DOP si è confermato uno dei prodotti enogastronomici italiani di eccellenza più acquistati e consumati in Italia e all'estero. Lo scorso anno i prosciutti prodotti sono stati quasi 2.700.000, più 1,5% rispetto al 2021. Stabile la quota di esportazioni che rappresenta il 17% della produzione totale. I paesi maggiormente interessati dall'export sono Francia, 27% del totale esportato, e Stati Uniti 19%. Sciopero dei vigilantes in tutto il Friuli Venezia Giulia. A indirlo per l'intera giornata odierna sono le sigle di settore dei tre sindacati confederali Filcamps CGL, Wiltux Will e Fisascat CISL. In Piazza Unità dalle 10 alle 12 è prevista una manifestazione dei lavoratori del comparto che avanzano tra l'altro rivendicazioni in materia salariale. Sentiamo Giulia Zgur, sindacalista della Wiltux Will di Trieste. Troviamo un contratto collettivo nazionale che ricopre gli operatori fiduciari e la vigilanza privata ormai scaduto da più di 8 anni e pertanto è necessario e doveroso sedersi in una nuova trattativa per il rinnovo appunto di questo contratto e per riparametrare quelli che sono purtroppo dei salari ormai obsoleti. Ci troviamo davanti a retribuzioni per questi operatori fiduciari che provano 4,70 euro all'ora e operatori armati che hanno come retribuzione oraria 6,19 euro. Quindi salari molto bassi che con il caro vita ovviamente non supportano più le famiglie della nostra regione. Abbiamo operatori che garantiscono ogni giorno, 365 giorni l'anno, H24 la sicurezza pubblica. Un lavoro disagiato, anche notturno, è pericoloso, con turnazioni spesso che raggiungono anche le 14 ore giornaliere. Si tratta di un mestiere che è molto sacrificante per quanto riguarda il bilanciamento tra vita privata e vita lavorativa. È un settore purtroppo drogato dagli straordinari, così usiamo in gergo. Quindi abbiamo tutti i lavoratori full time, con turnazioni settimanali che ovviamente non conciliano i tempi di vita e di lavoro. 7:31 minuti, le notizie di cronaca nera, una donna di 40 anni è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale accaduto ieri sera a Trieste in via Commerciale. Era in sella a una moto che è finita contro un palo, i soccorritori l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Ieri sera, poco prima delle 21, un incendio si è sviluppato in un'abitazione in via Pellico nel centro di Cividale. Le fiamme che si sono sviluppate dalla canna fumaria hanno poi interessato il tetto in legno dell'edificio. Le persone che si trovavano all'interno dell'abitazione sono riuscite a dare l'allarme in tempo e si sono potute mettere in salvo. Non ci sono quindi fortunatamente feriti o intossicati. I vigili del fuoco hanno portato avanti le operazioni di spegnimento fin quasi alle 2 di notte. L'allarme siccità in attesa di precipitazioni più cospicue di quelle che hanno interessato la regione negli ultimi giorni. L'autorità di bacino ha pubblicato un rapporto nel quale si evidenzia il raggiungimento del secondo grado di severità della crisi idrica di fiumi e falde. La situazione è di preallarme. L'ultimo report dell'Osservatorio Permanente sull'utilizzo delle risorse idriche dell'autorità di bacino del distretto delle Alpi Orientali, aggiornato a 2 settimane fa, aumenta da basso a medio lo stato di severità idrica per le acque superficiali, tarato su 3 livelli, mentre per quelle sotterranee per ora resta confermata la severità idrica media. C'è la concreta possibilità che nei prossimi mesi non ci sia acqua disponibile per irrigare i campi e per l'uso civile, spiegano i tecnici dell'ente pubblico, cui compete la pianificazione sulla gestione delle acque nel Triveneto. Implacabili dati sul deficit idrico, che risulta peggiore dello scorso anno, piogge insufficienti e in montagna appena un quarto della neve che dovrebbe esserci, a fronte di serbatoi idroelettrici dell'Alto Meduna, Alto Cellina e Tagliamento ormai semivuoti. Non va meglio per i fiumi. Tra i dati spicca quello sulla portata del Tagliamento, di appena 16 metri cubi al secondo, un quinto di quella media annua, col consorzio Pianura Friulana che riesce a prelevare già meno della metà dell'acqua che dovrebbe. Per le prossime settimane si prevede un ulteriore peggioramento con l'avvio dell'attività irrigua in Veneto, dove è già cominciata. La carenza d'acqua è tale da mettere a rischio le semine e la produzione agricola, uno scenario che potrebbe verificarsi anche in Friuli Venezia Giulia, rileva il segretario generale dell'autorità di bacino Marina Colaizzi, che parla di situazione drammatica nella destra Tagliamento, dove le falde sono ormai ai minimi storici, di poco sopra nella sinistra Tagliamento. Ai gestori del servizio idrico integrato e alle regioni il nuovo richiamo ad applicare ogni possibile misura di contenimento dei prelievi d'acqua sotterranei per gli usi non prioritari, all'obbligo di regolazione dei pozzi zampillanti a getto continuo anche con ordinanze, oltre a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione, rinnovato anche l'invito a predisporre piani di siccità per uso irriguo, come già previsto nel piano di gestione delle acque redatto dall'autorità di bacino. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. L'aeronautica militare e il soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia hanno scelto l'aviosuperficie di Avro di Rivoli, di Osoppo e le zone montane a nord di Gemona come teatro di un'importante esercitazione di ricerca e soccorso che si terrà il 9 maggio. L'esercitazione si svolgerà attraverso la simulazione di scenari di ricerca e soccorso quanto più impegnativi e verosimili possibile, ad esempio escursionisti infortunati in territorio impervio oppure ricerca di un velivolo disperso. A Pordenone, primi risultati dopo il passaggio alla raccolta dei rifiuti porta a porta. Sentiamo cosa dicono i dati diffusi da AGEA. Sono 516 tonnellate in meno e con poche impurità i rifiuti prodotti a Pordenone nel periodo gennaio e febbraio confrontate con quelle del 2022, secondo i primi dati diffusi dal gestore AGEA, il sistema di raccolta di rifiuti a Pordenone, premiando così il nuovo sistema di raccolta porta a porta. Si è passati dalle 3.227 tonnellate di gennaio e febbraio del 22 alle 2.711 tonnellate di quest'anno. Nello stesso periodo si riscontra il crollo della raccolta differenziata del verde da 255 tonnellate dello scorso anno alle 83 del 2023 e si evidenzia altresì un notevole miglioramento della qualità dei rifiuti, quasi privo di impurità, ovvero di materiali diversi dagli sfalci e dalle ramaglie. Diminuisce anche la raccolta di carta, meno 155 tonnellate, e imballaggi in plastica e metalli, meno 116 tonnellate, dati che fanno denotare che il turismo dei rifiuti si è ridotto drasticamente grazie al cambio di sistema. Calano anche per questi settori la frazione estranea, che per la carta è calata significativamente del 16,90% nei primi 2 mesi dell'anno, passando da 9,80% del 2023. Ancora più apprezzabile è il risultato per ciò che riguarda gli imballaggi in plastica, che nel 2022 contemplava il 34,10% di materiale estraneo, ridotto nel 2023 all'11,3%. Standard qualitativi confermati, ma lieve flessione del quantitativo di vetro e umido organico. Infine si rileva, secondo i dati, la quasi completa scomparsa dei rifiuti ingombranti che venivano abbandonati per strada nei pressi dei cassonetti. Pordenone, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. idee e proposte per superare il gender gap e ciò di cui discuterà la Confindustria Udine questo pomeriggio alle 16.45 a Palazzo Torriani, una attività di brainstorming di gruppo tra donne imprenditrici, manager e libere professioniste, con l'obiettivo di far emergere idee e proposte per superare la disparità di genere in ambito lavorativo e sociale, idee che saranno quindi sottoposte all'esame del prossimo Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Ultime giornate oggi e domani dello Student Day organizzato dall'Università di Udine, il più importante evento di orientamento dell'Ateneo rivolto agli studenti delle scuole superiori. Tra le iniziative previste, una simulazione del test ingresso a medicina e poi i test per l'accesso ai corsi di laurea in giurisprudenza, lettere, beni culturali, filosofia e trasformazione digitale, scienze e tecniche del turismo culturale e diritto per le imprese e istituzioni. Mentre per i ragazzi più piccoli, che devono decidere a quale scuola superiore iscriversi dopo la terza media, l'orientamento organizzato dalla Confindustria, sempre a Udine, alla Torre di Santa Maria alle 18, è organizzato l'Orienta Live Show, evento pensato per aiutare appunto i giovanissimi e le loro famiglie a compiere la scelta migliore per il successivo quinquennio scolastico. FameLab, il talent show internazionale della comunicazione scientifica, fa tappa a Trieste, si inizia alle 9 in sala Luttazzi del magazzino 26. Nel corso della mattinata i partecipanti provenienti dalle università di Trieste e Udine, dall'OGS e altre istituzioni accademiche e di ricerca del nord-est si sfideranno nel raccontare un argomento di carattere scientifico. Sentiamo meglio di cosa si tratta con Aura Bernardi, project manager di FameLab. FameLab è un talent show che nasce nel 2005 in Inghilterra e fin dal 2012 si svolge anche in Italia. È un concorso per giovani ricercatori con il talento della comunicazione che devono raccontare in soli 3 minuti al pubblico in modo accessibile e divertente un argomento scientifico che li appassiona, e lo devono fare senza poter usare proiezioni, grafici o video. E questa è la particolarità, diciamo, di questo contest. Come mai è nato questo contest? Che cosa vuole promuovere, sviluppare? Il contest è nato con l'intento di scovare dentro i laboratori di ricerca quelli che noi in Italia potremmo chiamare i nuovi Piero Angela, cioè persone con il talento per la comunicazione scientifica. Quante sono le realtà che in Italia partecipano a questo tipo di contest? In Italia vengono organizzate 12 selezioni locali in altrettante città, dal nord al sud dell'Italia, e Trieste appunto è una di queste. I vincitori della gara di Trieste accederanno alla finale nazionale che si terrà a settembre a Perugia in occasione di Notte dei Ricercatori, durante la quale verrà selezionato un vincitore italiano che poi a novembre parteciperà alla finalissima internazionale. A prescindere da quello che uno poi farà dopo aver partecipato a FameLab, in ogni caso imparare a comunicare in maniera chiara, semplice e precisa è un elemento fondamentale. Tutti coloro che partecipano a FameLab poi entrano a far parte di un circuito di comunicatori che partecipano a festival, eventi e rimangono sempre in contatto. Un esempio? Un esempio di questi è uno dei maggiori comunicatori scientifici che abbiamo adesso in Italia, che si chiama Luca Perri, che è stato appunto un vincitore di FameLab nel 2015. Una seduta dell'Assemblea delle Nazioni Unite al Liceo Scientifico Oberdan di Trieste, la simulazione a cui sono chiamati a partecipare ragazze e ragazzi dell'istituto insieme a coetanei provenienti da altre regioni italiane e da alcuni paesi europei. L'iniziativa, che comincia questa mattina nella sala teatrale di Santa Maria Maggiore, andrà avanti fino al 2 aprile e permetterà ai giovani di capire i meccanismi di svolgimento di una riunione dell'ONU, dando altresì l'occasione di fare nuove conoscenze con coetanei di provenienze e culture diverse. La Shoah, ma soprattutto i risvolti a Trieste delle persecuzioni della prima metà del Novecento, sono al centro di un approfondimento storico didattico per un folto gruppo di insegnanti. Tra le tappe, la risiera. Conoscersi per sapere come si insegna la storia del Novecento nelle zone di confine. 40 giovani insegnanti delle scuole medie e superiori italiane, croate e slovene stanno partecipando ad un seminario a Trieste della durata di 3 giorni, con una lunga visita anche alla risiera di San Sabba. In particolare il tema è quello della Shoah e delle violenze di massa, un dialogo per accogliere le prospettive dell'altro al di là del confine. Si tratta del progetto internazionale The Holocaust as a Starting Point, l'Olocausto dell'Olocausto come punto di partenza, nato nel 2015 grazie alla più antica e prestigiosa istituzione al mondo che si occupa della Shoah, le Memorial de la Shoah di Parigi. Presente al seminario triestino, la responsabile italiana del Memorial e direttrice scientifica Laura Fontana e lo storico Raul Pupo, a cui è stato affidato il compito di aprire i lavori con un intervento sulla stagione delle fiamme fino alla stagione delle stragi dal 15 al 43. I 13 insegnanti italiani presenti, fra cui una del Friuli Venezia Giulia, sono stati selezionati dal Ministero dell'Istruzione fra gli oltre 100 candidati da tutta Italia. Lo scopo del progetto è aprire un dialogo anche su questioni scomode, come i crimini fascisti in Jugoslavia e le foibe. Ogni professore, una volta tornato a casa, sceglierà un tema e lo trasformerà in una lezione da tradurre in inglese e che sarà pubblicata sulla piattaforma del progetto, così da essere fruibile anche dagli altri docenti. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ultimo appuntamento del Festival Geografie di Monfalcone, che chiude questa sera con un incontro insieme al comico e personaggio televisivo Ezio Greggio, protagonista di innumerevoli esilaranti episodi racchiusi nel suo ultimo libro intitolato Numero 1, una vita di avventure, incontri, scherzi e risate, al Teatro Comunale alle 21. E sempre tra gli appuntamenti culturali, per la rassegna e colloqui dell'Abbazia di Rosazzo a Manzano, questa sera con Margherita Reguitti si svolgerà una lettura del quartetto Razumovsky di Paolo Maurensig, romanzo di congedo dello scrittore scomparso 2 anni fa, l'inizio alle 18. Gli spettacoli con la musica, un concerto del violoncellista Enrico Bronzi e della pianista Francesca Sperandeo, apre a Maniago la rassegna Una banca in musica al Teatro Verdi alle 20.45. Nel programma, tra l'altro, la sonata in La minore di Schubert e inoltre pagine di Debussy e Shostakovich. Il concerto è a ingresso libero. Ma l'evento musicale di oggi in regione è il concerto udinese di Damien Rice questa sera al Teatro Nuovo. It's the wrong time, she's pulling me through. I biglietti erano andati esauriti in poche ore dopo l'annuncio della data friulana, una delle due in Italia nel tour europeo che nel nostro paese riprenderà solo a luglio. Mercoledì sera il cantautore irlandese è stato a Milano al Teatro Dal Verme, 16 canzoni più i bis, una scelta diversa rispetto a quella dei giorni precedenti nei quali si è esibito tra Parigi, Amsterdam e Anversa. Insomma, scaletta tutta da indovinare, non uno schema ripetuto con la carta carbone, frequenti interazioni con il pubblico, quasi un incontro con un vecchio amico che racconta le sue storie intime, profonde e combattute, ma che riesce a divertire, a guidarti con leggerezza. Niente di strano che Damien Rice stia progettando un tour nel Mediterraneo, spostandosi in barca a vela. Altri spettacoli di oggi a Pordenone, aspettando la dunata degli alpini, l'orchestra e il coro San Marco eseguono in cattedrale un programma di musiche tradizionali e pagine contemporanee per ricordare il sacrificio degli alpini in Grecia durante la Seconda Guerra Mondiale e introdurre i riti pasquali. Alle 21 a ingresso libero. Ultimo appuntamento per la stagione concertistica di Notte del Timavo, Tango da pensare, al Castello di Coloredo di Montalbano. Questa sera suona l'ensemble Neotango. A Sacile prende avvio la 27esima edizione dell'FVG International Music Meeting, festival organizzato dall'associazione Ensemble Serenissima. Alle 20.45 a Palazzo Ragazzoni, di scena il quartetto New Era. E a Gorizia, al Teatro Bratusch, sarà presentato il concerto dal titolo Da Vienna alla California, dall'operetta al musical targato Disney nel centenario della fondazione. Protagonisti Andrea Binetti, tenore, Stefania Seculin, cantante attrice, Eleonora Lana, pianoforte, alle 20.30. Corsa alla regione in campo i big, siamo alla rassegna stampa, il titolo che apre l'inserto di Pordenone del Gazzettino. Anche qui troviamo il tema della sicurezza sul lavoro, resta gravissimo il 22enne coinvolto in un incidente in azienda Fontana Fredda, poi l'addio allo scrittore viaggiatore Andrea Spinelli. Il nodo sanità, abolito il vincolo di esclusività, la norma che impediva agli infermieri del settore pubblico di lavorare anche per un privato, ora il decreto libera 500 infermieri. Di spalla Valla, la polemica a San Vito al Tagliamento che non ci sta a fornire acqua potabile al vicino comune di Bibione, ora che sta per iniziare la bella stagione, perché il sospetto è che quest'acqua, risorsa ormai preziosissima, non sia utilizzata per scopi domestici, bensì per riempire le piscine della località di Villeggiatura Veneta. Sotto il calcio, le 150 volte di Zamarini in maglia nero-verde, sull'edizione di Udine del Gazzettino a centropagina la fotonotizia, sulle oltre 1500 firme raccolte per salvare il cinema centrale, poi la cronaca, migranti trasportati senza cibo né acqua, trentenne in carcere, l'attraversamento del confine tra Italia e Austria avveniva a Pontebba. Infine il protocollo della questura per tutelare le guardie mediche. Campagna elettorale anche sul piccolo, l'apertura di entrambe le edizioni e per l'intervista al Presidente del Consiglio Meloni, oggi in Regione. Italia di nuovo protagonista nei Balcani, recita il titolo citando appunto Meloni. Trieste al porto dei record, ma può crescere ancora tanto, impegno del governo su Varzila. Da grande foto invece per l'incontro con Elly Schlein a Trieste, il suo rilancio sul lavoro, sanità e diritti. Cronaca locale, nell'edizione di Trieste la protesta dei negozianti al Giulia e a San Giacomo per i rincari del PARC, e poi Angelo D'Adamo, rieletto presidente regionale di Federconsumatori nel congresso regionale. E ancora per Porto Piccolo arriva l'offerta dei thailandesi di Minor Hotels. Dalle pagine di Gorizia invece in prima pagina trovano richiami il piano di alienazione comunale, nel quale c'è anche l'inceneritore della città, e da Monfalcone il potenziamento del pronto soccorso. L'apertura del Messaggero Veneto di Udine è sulla dunata degli Alpini di maggio. Ecco il percorso della sfilata, quasi 2 chilometri con partenza da Piazzale Osoppo. Domenica 14 maggio, traffico vietato nella zona rossa. In prima pagina troviamo anche alcune fotonotizie che si riferiscono alla chiusura della campagna elettorale, appunto nel capoluogo friulano. Tra ieri e oggi il rush finale con le visite dei big della politica nazionale. Quindi le cronache della provincia: a Codroipo rimesso a nuovo il G91 delle Frecce e Tricolori, a Tolmezzo lutto per la morte della piccola Deva Franco di 2 anni, la bimba era affetta sin dalla nascita da una grave paresi cerebrale. A Trasaghis tutto esaurito per il Glen, il camping glamour, la stagione turistica parte domani tra bungalow e chic e gite in kayak, c'è già il pienone fino a settembre. Tragedia sul lavoro, controlli e sanzioni, titola invece l'edizione di Pordenone, sempre del Messaggero Veneto. Quindi la fotonotizia sulla morte di Andrea Spinelli, scrittore e viaggiatore. Brugnera dice invece addio all'ex sindaco Gabriele Verardo. Infine le ferie della Electrolux di Porcia, dopo 16 anni torna lo stop ad agosto. C'è una notizia di sport con la quale riprendiamo il notiziario. Basket, la Pallacanestro Trieste assediata dagli infortuni. Dopo Spencer si è fermato anche Hudson, che si è infortunato in allenamento. Botte, distorsione al ginocchio destro. Il danno sarà valutato con una ecografia quando l'articolazione si sarà sgonfiata. Intanto il club è corso ai ripari. Ha tesserato l'ala lettone Roberts Stumbris, 30 anni, proveniente da Trapani in A2. Dovrebbe giocare già domenica contro Bologna. C'è ancora il tempo per segnalare qualche appuntamento di spettacoli a Trieste al Teatro dei Fabbri. La Contrada presenta Pensiero Stupendo di e con Didi Garbaccio Bogin, autrice e attrice piemontese di origine brasiliana, che racconta anche ballando e cantando, attingendo pure al repertorio di Patti Pravo, la sua storia di italiana di seconda generazione, oggi e domani alle 20:30. Lo spettacolo tra teatro e musica, Fatica, poesia e amicizia, dedicato a Pierpaolo Pasolini e padre David Maria Turoldo, fa tappa al Kulturnidom di Gorizia con inizio alle 20:45. A Trieste torna in scena ad Hangar Teatri lo spettacolo Maria, ispirato a un racconto di Gabriel García Márquez, regia di Elena Delitanassis, alle 20:30. Altri appuntamenti della giornata: in regione si parla oggi anche di arte. A San Daniele c'è un convegno dal titolo Carlo da Carone e gli scultori lombardi del Rinascimento tra Friuli, Veneto e arciducale. Si comincia alle 9.30 alla Biblioteca Guarneriana. Mentre a Udine alle 9 inizia la conferenza dal titolo Le Cementine, una storia di arte, architettura e artigianato a Palazzo di Topo Wasserman. Per la rassegna Carni a Cultura si parla dell'evoluzione del nuragico attraverso l'architettura a Tolmezzo, a Palazzo Frisanco, insieme all'archeologo Giacobbe Manca alle 18. A Trieste questo pomeriggio si ricordano gli operai friulani che lavorarono alla costruzione della colossale ferrovia transiberiana in Russia. In sala 48 Gambini della Biblioteca Comunale alle 16.30 sarà proiettato il film I Dimenticati della Transiberiana per la regia di Christian Rorato. E sempre a Trieste si parla di Istria con la presentazione del volume L'Olivo della Pace di Mariella Zorzet Fra Giacomo alle 17.30 nella sede della Lega Nazionale. Infine l'Università della Terza Età organizza un incontro per parlare dello stato di salute della stampa in Italia. L'incontro si intitola Giornali di carta tra crisi e minacce. Si terrà alle 17.30 nell'Aula Magna dell'Università in Via Corti, appunto a Trieste. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Lorenzo Gallinzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Tommaso Vinoni. Sono le 7.53, vi lasciamo alla Onda Verde regionale, ci risentiamo più tardi, grazie per la vostra attenzione, buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.